Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Caro Oscar, alle 8:20 minuti. Eccoci qua nella giornata topica. Che giorno è oggi? Venerdì! devi dirlo, sennò... Con un po' di enfasi, l'ha detto. Venerdì 11 marzo. San Costantino, non è il Costantino quello dell'imperatore, no, è un re di Cornovaglia, abbastanza, diciamo, peccatore, suomane, eccetera, però poi si converte, quindi diventa re nel VI secolo. Anche oggi comodo così. È un po', ecco, sempre i re però, persone normali così di santa, esatto. No. Però vabbè, è un caso. E anche oggi dei nomi che io non mi invento, ma sono nel nostro calendario liturgico, tipo Eulogio, Eutimio, Firmiano, Pionio, Trofimo e Tallo. Santallo. Santallo. Vabbè, questi sono i santi. Tra l'altro il Papa ha detto sui santi, ha richiamato dicendo la fabbrica dei santi, il commercio dei santi, l'industria dei santi, non speculate su questo. Sai che alcuni hanno visto in queste parole una implicita critica, in realtà molto pesante, verso a Padre Pio, Wojtyla. Verso Wojtyla. Perché... Allora, pensavo, dicevo, le recenti manifestazioni. Verissimo. Però fabbrica dei santi, tieni conto che nella modernità chi è tornato alla proclamazione di centinaia e centinaia di santi è stato Paolo Giovanni Paolo II, Papa. E quindi, insomma, anche tra papi ci si... La dottrina papale, molto, cioè, ognuno porta per avanti. Per me è molto interessante, esatto, di Bergoglio, che su questo, insomma... buon compleanno anche Robert Murdoch, che è nato nel 1931, ma si è appena risposato con Jerry Hall. Ho letto che Mick Jagger ha detto: sono disgustato, credo, da qua. Mick Jagger è l'ex, ovviamente. Gli ha fregato, insomma. Però c'è tutto impressionante. Impressionante cosa che si sposa Rupert no, che si sposa. Io non mi meraviglio che il signore, anche che hanno avuto tutta la vita, considerino però sposare un magnate di 85 anni come una cosa, fa parte di una vecchia impostazione. Vecchio lui un pochino si può lui dire. Sì. Non no, è io parlavo della vecchia impostazione del signore alla ricerca dei patrimoni, ma questo può essere che non sia così vecchio, forse è una legge eterna della storia. Una legge eterna, sì. Allora, 800 24 00 24. Oggi, cari ascoltatori, chiediamo molto il vostro contributo. Perché ci ha colpito quello. A me ha colpito quello, l'ho letto nella segna stampa. Renzi pare che abbia il suo bazuchino. Mentre il c'è il bazuchino. Dal bazooka di Draghi, il bazuchino di Renzi. Renzi. Forse, così dice Libero, ha individuato che cosa fare come colpo al fisco, colpo, regalo alle tasse degli italiani: abolire il bollo auto. Abolire come vincere le amministrative con il teatro. Certo, c'è questa questione che alle regioni bisogna spiegarglielo, perché loro lo incassano. Ma si dirà alle regioni: risparmiate. Ma si dirà alle regioni: impiccatevi più. No, impiccatevi no. No, dai, risparmiate. Risparmiate, sì. No, vorremmo sapere dai nostri ascoltatori: voi che cosa vorreste cosa come taglio? Esatto, cosa abolireste? Ci sono stati gli 80 euro. Pare adesso il bollo auto. È un'indiscrezione. Voi cosa abolireste? Ma noi cosa gli chiediamo? Cosa si aspettano? Che Renzi provincia le elezioni? O cosa vorrebbero Oppure cosa vorrebbero loro? Perché quello che vogliono. Voi nei panni di Renzi cosa abolireste? Esatto. Nei panni di Renzi cosa abolireste? Non sono accettate risposte tipo le mogli, le cose. Siete seri nella misura del possibile, perché qua si danno oramai 500 euro ai diciottenni. Quindi, però, a proposito, sono arrivati questi 500 euro ai diciottenni? Manca ancora un po' le elezioni. Che domanda. Qualche giorno prima, guarda, subito arriva questo spiritoso che tolga il canone. Ma come? Appena messo in bolletta, appena fatto. Ragazzi, poi non è una buona idea, perché la prima rata del canone, come sapete, è per luglio. Deve levare qualcosa che si paga prima delle elezioni. La tassa Rai. Taglio dell'IRPEF. Qua andiamo sulle questioni più serie. Dell'IRPEF, va bene. Beh, è annunciato per il 2018 per il momento. Per il 2018 le elezioni amministrative vengono un po' prima. E come si vede, dalle elezioni amministrative interviste delle Malcorriere, certo. Insomma, l'arietta non è proprio delle migliori. Passaporto gratis, ma c'è già il passaporto gratis, si paga forse all'inizio, poi il rinnovo, non c'è più il bollo su, annuale sul passaporto, questo l'hanno però tolto. Questo ascoltatore si accontenta di poco, tutto sommato. Cuneo fiscale, accise sulla benzina, quelle anacronistiche, perché dovevamo pagare la Bissini ancora, sì, poveri Abissini. L'IVA al 19% come in Germania, vorrei un ascoltatore, tanti vedi arrivano l'IVA, guarda qua Oscar, tu non li vedi WhatsApp qua. C'è un aggiornamento continuo di gente che ci manda al 349 una cosa è sicura, per il momento non si è visto un messaggio che dica ma no Renzi è troppo serio, non farà regali elettorali, nessuno ci crede a questo, tutti quanti no, tutti si immedesimano, esatto, in Renzi, vedi, esatto. Guarda qua, tasse universitarie, taglio del cuneo e dell'IRAP, introdurre il quoziente familiare. Che meraviglia. Le tasse sul porto da... non riesco neanche a stare dietro perché mi scorrono, tasse sul porto d'uso d'armi da caccia, molto reattivi, molto la spesa pubblica, questa sembra la barzelletta delle 8:25 e c'è, vedo non in WhatsApp ma fuori qualche ascoltatore anche che riecheggia vecchi tempi, più pilu per tutti. Eccolo qua, mica me lo invento. No, certo, è vero, lo vedo anch'io, un SMS delle 8:24. Ce n'è arrivato un altro più esplicito, ma il tema è sempre, è sempre quello. I vitalizi, abolite le province autonome, tagliare la Juve. Questo non è incostituzionale. È una buona cosa. Come una buona cosa? Che dici? L'IMU sui capannoni industriali, peraltro sfitti. Questa è una vergogna, ci scrive un ascoltatore. Ma stanno arrivando veramente decine e decine, se non centinaia, a ogni secondo. Però Renzi, sai che Renzi, devo dire, ieri è andato a inaugurare un pezzettino della Salerno Reggio Calabria. Tu preparati che il 22 dicembre non prendere impegni. No, figuriamoci, sono già lì. Devo dire, ha fatto un po' permaloso, cioè sapete che avevano riso i giornalisti stranieri. Permaloso. E senti ieri cosa ha detto. Sì. Io non voglio passare i prossimi mesi a discutere solo della Salerno Reggio Calabria. Voglio finirla, per poi andare in faccia da quei giornalisti che ridevano di noi e dire scusate, prego, potete ridere di me, potete ridere di Caio, potete ridere di noi, ma non potete ridere dell'Italia. E da questo punto di vista... Ma l'orgoglio... Ecco, e invece secondo me è il contrario, cioè questa maniera per cui si usa l'Italia per evitare critiche politiche è una maniera truffaldina. Dice. Sì, ma proprio uso apposta questo. Però lui ha detto potete criticare me. E no, è il contrario, perché questo è un'iperbole, come ovvio, perché dice non invece... perché siccome, ripeto, lui aveva promesso che andava a un pellegrinaggio, a un santuario, se non pagava entro il settembre 2014 tutti i debiti della PA. Sì, è vero. Non li ha pagati, nel senso, la Banca d'Italia ha preso questo, esatto, impegno. E se l'erano presi reciprocamente. Allora, tanto per dirne una, ecco, i debiti, la Banca d'Italia dice che sono rimasti 70 e torneranno a 90 alla fine di quest'anno. Allora, è inutile, siccome stiamo parlando di una persona che fa queste promesse, poi non le mantiene. Quindi non è che può dire vi vengo a prendere, cos'è che ha detto? Vengo in faccia a guardarvi, insomma, perché ridevano. Vabbè, l'orgoglio italico. Sì, oggi tra l'altro io non capisco neanche però il livore di uno come D'Alema, non so se hai letto l'intervista sul Corriere della Sera, cioè Renzi è staliniano, i dirigenti del PD sono staliniani, Orfini siamo alla stupidità. Tra l'altro una sua creatura, ma lui dice, ma ognuno poi cresce in modo diverso. Renzi fa propaganda, per carità, ma va bene, Renzi è come Berlusconi, ci manca solo... La sua accusa è un'accusa che, per così dire, viene dalla natura dell'interpretazione politica di che cosa è stato il partito di cui lui è stato leader. Cioè lui dice, Renzi ha assunto una responsabilità storica, cioè lui ha buttato a mare, c'è scritto testualmente, quello che restava della tradizione comunista e cattolica democratica con cui noi abbiamo fatto, noi, non Renzi, questo partito. Quindi è un nemico dal punto di vista delle, ma un nemico peggiore di quelli che stanno negli altri partiti. Peggiore di Berlusconi, certo. Esattamente, quindi la dichiarazione di guerra è piena, è totale. No, ma è totale. Comunque qua continuano le proposte al 349-238-6666. Chi taglierebbe l'IVA, le regioni, vendere tutti i beni pubblici, aprire le case chiuse per fare un po' di tasse, legalizzare le droghe leggere, togliere le sovvenzioni alla carta stampata, gli aiuti alle banche, questo ti piacerà caro Oscar, gli scaglioni IRPEF. insomma ce ne sono tantissime. Riccardo è d'accordo sul via al bollo auto. Via al bollo auto, ma infatti sentiamo, ci chiamano anche Alessandro da Como. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Io sono abbastanza allibito da questa ennesima sciocchezza del bollo auto. Non che è un'ipotesi, è un'ipotesi, non buttata lì sui giornali. Evidentemente sarei contento, ma la questione è un'altra, che secondo me questo governo è in stallo e non riesce più, o non vuole più perché non ha le maggioranze, a pensare alle cose serie. Guardi che Renzi la viene a prendere a casa, come ha detto ieri. Ma venga, perché io sono uno che sono deluso da Renzi, perché ci credevo ma si è perso per strada. Le faccio un esempio rapido: abbiamo perso mesi in scacco per la stepchild adoption, che forse da un punto di vista teorico era anche una cosa, io non sono d'accordo, buona, ma alla fine quante persone in Italia va a prendere questo problema? Io ho seguito una trasmissione, se non sbaglio, di Giannino Ballarò, e qui la dice di lunga Giannino era un'altra cosa. Da Giannino è qua. No, Giannini. E le dico quante becera la politica italiana, perché in quella trasmissione c'era uno contro la stepchild adoption che diceva che andrebbe a beneficiare per 500 casi in Italia, chi invece era a favore diceva 100.000. Sì. Da impostare una trasmissione con persone che dicono 500 e 100.000, io già come... Ma i numeri sono creativi in Italia, come ben sa Alessandro. No, però è chiaro, insomma, andate un po' più al punto se chiediamo la domanda precisa, però grazie per la sua considerazione, cioè che cosa abolireste o cosa non abolireste. Lei dice il tagliare il bollo, no. Senti questo che ci scrive Oscar: sono un avvocato in fila dalle 7:30 a commissione tributaria a Roma per mettere il nome in lista e depositare un ricorso. Lo scrive: ho saltato la colazione coi figli, mi sono alzato all'alba per andare al Colosseo, che si raggiunge con una comodità che è da bicicletta senza sella. Maledetti! Ecco, uno inizia così il venerdì. Cosa fa Giorgio? Mi dà ragione. Alle 11. E quando arriveremo a quello saremo a metà del cammino di civiltà che dovremo compiere. Mannaggia, sì. Allora, Roberto ci chiama da Roma. Roberto, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. No, non si sente, no, non si sente niente, Roberto. Aspetti che la richiamiamo. Intanto andiamo ad Antonio dalla provincia di Salerno. Si sentiva veramente male. Antonio, buongiorno. Eccoci. Salve, ciao. Ciao. Volevo intervenire dicendo che ci sono tante cose da fare, anche se questa è la solita bufala che poi Renzi mette su per fare i suoi voti, come ha fatto con gli 80 euro. Tanti di noi lo sanno. Vediamo, cioè adesso sembra che sia una notizia, un'indiscrezione questa del bollo. Sì, certo. Ma lei che farebbe? Lei che farebbe? Io concordato, annullerei, abolirei il concordato. Sono 6 miliardi e mezzo minimo all'anno che vanno via per questo benedetto concordato. E poi intanto benedetto non so se sia... sicuro che Oscar sia d'accordo con me. Oscar Giannino qua sfonda lei una porta aperta, caro. Sono Antonio, no? Anticoncordatario per natura. Quindi quello farebbe. È la cosa principale anche per la laicità del nostro governo, che tanto si annuncia, tanto preannuncia e poi non fa niente per la laicità, insomma. Va bene, abolire il concordato. Ma Renzi è stato scout, non pretenda troppo. Guarda, del resto, se per i peccatori è solo la redenzione e la speranza. Quindi non è che altrimenti mi vorrà mica fare il calvinista, vorrà mica delle pene adeguate per i peccati. Se vuole fare il calvinista vale in Germania. I peccati si perdonano nella nostra tradizione. Tra l'altro, tra tanti tagli, senti qui Oscar, c'è chi propone invece una tassa: ripristinare il bollo sugli yacht. Qui c'è un po' il colpire i ricchi, Ci perdono, come abbiamo visto, io non voglio, i risultati sono stati che ci ha perso chi lavora a basso reddito, nei ristoranti, negli alberghi dei porti, chi lavora a fare i servizi dei porti, questo è l'effetto, però per carità, però... rispetto da tutti i punti di vista, come ovvio. C'è chi vuole chiudere le COP, c'è chi vuole vendere la Sicilia, vabbè, insomma diciamo vendere che si sta... Vendere la Sicilia. Siamo veramente alle quasi provocazioni. Abbiamo recuperato Roberto da Roma. Buongiorno Roberto. Buongiorno, mi sentite? Ecco, benissimo adesso. Buongiorno, io sono un imprenditore di Roma, mi occupo di appalti pubblici e soffro in maniera bestiale in questi ultimi anni, sto soffrendo. Piuttosto che fare le solite manfrine politiche, aboliamo, togliamo, facciamo tutte queste stupidate, perché sono stupidate vista l'enorme spesa pubblica che dobbiamo affrontare ogni anno, perché non si parla di ridurre alcune anche drasticamente, vedi le tasse sul lavoro, vedi le tasse sugli immobili, sono quelle che ci portano allo sfascio. non è il discorso di togliere il bollo. Il bollo è una macchina, una moto, uno yacht, è un qualcosa che uno decide di comprarselo quando se lo può comprare, quindi se può pagare un prezzo per l'acquisto di quelle cose, può pagare anche un bollo. Magari un bollo è un bollo giusto. Non vedo per quale motivo uno che deve avere uno yacht, che poi yacht, parliamo di barche di 10, 15 metri, 20 metri. Però dice Oscar che questo va a colpire un certo tipo di mercato, no? Il mercato di quelli che lavorano nei porti, i ristoranti. Certo, è logico, perché cioè, è logico, dove si mette una tassa si colpisce anche qualcun altro. Si va a colpire tutto l'indotto che sta intorno a quei mercati, è logico. Andate a Porto Cervo, a Porto Rotondo, in Sardegna. Due anni fa, l'ultima volta che sono stato, erano deserti rispetto a 15 anni fa. Sì. Deserti. Insomma, comunque Roberto, la ringraziamo per il suo intervento, noi accogliamo tutti. Come vedi, il terreno è fertile. Come no, ma basta vedere i messaggi, ma davvero è una roba incredibile. Vorrei poter trasferirvi questa cosa, la schermata che abbiamo davanti, tiene 10-15 messaggi. Sembra lo scrollone delle quotazioni dei mercati. Esatto, ogni 3 secondi ne cambiano altri 15, non riesce a star dietro a quelli arrivati con le vostre proposte. Giriamo a Palazzo Chigi. Giriamo tutti a Palazzo Chigi, oppure ci penseranno già loro. Fateci la proposta di dove ogni tanto le lanciano queste cose. La consultazione, la consultazione pubblica. Voi dite la vostra, che noi decidiamo noi. Questo è tra l'altro, continuate a chiamarci con le vostre proposte o a scrivercele. Noi tra poco parleremo di un'altra proposta che è stata lanciata da Panorama ed è stata raccolta da 180 senatori. Saggia proposta, per me almeno. Che è questa? Vieni indagato e processato e poi risulti innocente, a quel punto le spese legali dell'avvocato le paghi lo Stato. E questa è la proposta, ed è diventata una proposta di legge, è stata lanciata da Panorama. Io mi auguro che riesca ad andare anche in aula e non di quelle che rimangono poi fuori, infatti, perché espropriate dalla legislazione governativa. Avremo il senatore Gabriele Albertini, che è il primo firmatario, ha raccolto questa proposta, e Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama, tra poco, state con noi. Allora, caro Oscar, abbiamo lanciato questa idea, questa proposta. Voi, se foste in Renzi, cosa tagliereste? È una proposta eterogente, è successo, perché abbiamo una partecipazione elevatissima. Sì, elevatissima, perché oggi su alcuni giornali c'è scritto che Renzi pensa di tagliare il bollo auto. E non sappiamo se è così, ma qualcosa taglierà per vincere le elezioni, questo esatto. È poco mai sicuro. E ci è arrivato poco fa un tassiamo i cinesi, ma poveri cinesi, ma siamo veramente... Il Parlamento si occupa dell'importazione dell'olio tunisino. Esatto. Poi ridete di Trump, capite? Dite che Trump è l'abominio del mondo. Guardate che la politica italiana è oltre Trump. I muri eretti in Europa in questi mesi sono oltre Trump. E voi ridete di Trump? È un paradosso, come sempre. Che poi, tra l'altro, senti anche su WhatsApp cosa abolire. Ce l'ha mandata anche in audio, qualche proposta. No, il bollo auto no. Il canone Rai, quello sì. Ah. È da abolire. Via le tasse dagli immobili strumentali, assolutamente. I capannoni non devono pagare tasse. La tassa più iniqua che paghiamo in Italia, quella dei politici. Non fanno niente e costano tanto. Vabbè. Io abolirei Renzi. Vabbè, adesso è inaccettabile questa, inaccettabile. Sì. Vabbè, comunque, caro Oscar, continuate a scriverci e a telefonarci, che se c'è tempo poi in chiusura di trasmissione, ma anche lunedì continuiamo questo contest, perché sarà la domanda più affascinante di quelle elezioni, mica voi che si occupano di questioni serie. C'è qualcuno invece che ha lanciato una proposta di modifica di diverso tipo in campo giustizia, è stato Panorama. Abbiamo qui il vice direttore Maurizio Tortorella, che salutiamo. Maurizio, ciao, buongiorno. Ciao Alessandro, ciao Oscar. Buongiorno. L'idea di Panorama era questa, molto sintetica. Se sei innocente e finisci in giudizio, fai un processo, ma poi risulti innocente, a quel punto lo Stato paghi le spese legali, ti paghi l'avvocato. Come c'è in quanti paesi, Maurizio? La cosa sorprendente è proprio questa. Io sono andato a verificare quali fossero i paesi europei, e mi sono limitato all'Europa, che applichino questa norma, e sono 32. In Gran Bretagna il giudice che ti manda via innocente dal tribunale automaticamente stabilisce che ti vengano rifuse le spese legali che hai sopportato. Altrettanto accade con misure diverse in Germania, Russia e Ucraina. Poi ci sono invece altri 28 paesi, 28, nei quali altri tribunali o altre istituzioni, per esempio, che ne so, governo, può possono stabilire, nel momento in cui tu chiedi loro di essere risarcito delle spese legali che hai sopportato, se è stato assolto pienamente, di essere risarcito. E sono, se vuoi te li elenco tutti perché sono impressionanti: beh, no, Albania, Austria, Bosnia e Erzegovina, Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Turchia e Ungheria. E insomma, quindi avete lanciato questa proposta che è stata... La grande ingiustizia, è la grande ingiustizia italiana. Certo, che è stata raccolta da il senatore Gabriele Albertini, che è con noi. Buongiorno, senatore. Buongiorno, dottor Nesponi, a lei che ci ascolta e all'amico Maurizio Tortorella, che è stato un consulente di primaria importanza, perché quasi me l'ha scritta lui il disegno di legge. E tra l'altro, senatore, quante sono le firme? Perché lei ha fatto un disegno di legge, l'ha tradotto in un disegno di legge. Ma sono aumentate da 176, siamo a 182, e ho una notizia interessante. Il presidente Pier Ferdinando Casini, che nell'articolo di Maurizio Tortorella veniva citato come uno dei neghittosi che non aveva firmato, addirittura con la motivazione che non sarebbe mai neanche stato incardinato né approvato da nessuno, perché insomma riguardava argomento troppo delicato, perché poi nel finale si parla anche di una eventuale responsabilità contabile del pubblico ministero avventato, diciamo. E mi ha telefonato e mi ha detto che l'ha messa su un piano un po' suggestivo, che aveva avuto un sogno, un incubo meglio, un innocente morto appunto senza aver avuto ristoro e in miseria per le spese della difesa sostenuta, insomma l'aveva accusato di esserne la causa delle sue sofferenze, e quindi insomma alla fine mi ha aggiunto la sua firma. Siamo a 182 in questo 182 momento. Firme. Albertini è stato strepitoso, devo dire, perché gran parte di queste firme, che sono tantissime, perché sono la stragrande maggioranza dei senatori, va detto, è rarissimo, credo che non ci sia. Bipartisan, assolutamente, perché si va da Sinistra Ecologia e Libertà fino a Forza Italia, hanno firmato praticamente tutti. E tra l'altro consentitemi di dire che questo numero, cioè la netta maggioranza, dovrebbe fare in modo che questo disegno di legge vada davvero in aula e venga approvato, perché è così difficile vedere iniziativa parlamentare che diventano leggi rispetto alla bulimia legislativa del governo. Saluto Oscar, che non avevo colto fosse con voi. Posso aggiungere un particolare? Allora, tutti i gruppi, diciamo, hanno firmato, almeno rappresentanti di, eccetto i 5 Stelle, che hanno eccepito, a parte i casi individuali dove erano disponibili, ma hanno eccepito, diciamo, che dovevano parlarne nel gruppo. E il capogruppo, il senatore Buccarella, in Commissione Giustizia, mi ha fatto presente che lui stesso aveva in animo, ma non l'ha ancora redatta, di presentare un disegno di legge con pari, diciamo, contenuto, ma con una variante che secondo me è impropria, ma vediamola. Invece che il rimborso, lui prevederebbe la deducibilità dalle tasse, ma questo è chiaro che premia i 740 gonfi, e uno che si è indebitato, un poveraccio che magari ha perso il suo patrimonio, in più ha dovuto anche sostenere delle spese che di cui non aveva la disponibilità degli importi, e quindi proprio rovinato, questo le tasse non le paga, perché è un disgraziato. No, certo, vogliamo ricordare che il progetto di legge poi si concretizza così, cioè aggiungere nel codice di procedura penale questa frase: quando il giudice riconosce un cittadino pienamente innocente, deve contemporaneamente condannare lo Stato a rimborsargli le spese di giudizio. Certo. Questo in maniera molto semplice e chiara per tutti, no? Che poi è quello che avviene nel processo civile, no? Dove le parti sono pari. Se uno ha un attore, diciamo, fa una causa e la perde, e paga le spese processuali di una causa avventata, no? Oppure c'è la compensazione nel caso in cui, diciamo, il torto e la ragione sono equamente, e anche in questo caso lo si prevede nel caso proprio del processo penale, dove diciamo c'è una condizione non di assoluta, in altri paesi almeno è così, non di assoluta innocenza, ma di parziale innocenza o di innocenza con dubbio, si possono compensare le spese tra l'imputato e lo Stato. Ora resta da capire, Oscar, appunto, che tipo di procedura parlamentare ci sarà, perché come dici tu il governo è abituato, tutti i governi per la verità in genere, a imporre calendari anche parlamentari in qualche modo. Ma in questo caso tipo, di fronte a numeri così elevati, secondo me prima il Senato, i gruppi, la presidenza eccetera, per quello che riguarda l'agevolazione del calendario dell'approvazione al Senato, e poi la cosa dovrebbe automaticamente anche alla Camera riverberare. Qui è una questione di principio elementare liberale, di tutela e difesa dei diritti naturali. Sono d'accordo con quello che dice Oscar, se posso intervenire, e vorrei citare la risposta che mi ha dato, che è contigua con quello che avete appena detto, il presidente, il capogruppo, diciamo, del gruppo del PD, senatore Zanda, il quale ha letto il testo, se ne è compiaciuto personalmente, però ha detto che voleva parlarne col ministro Orlando, il ministro della giustizia Orlando. E poi non ho più saputo che cosa le ha risposto il ministro, però diciamo che l'attenzione alla sintonia con il governo ovviamente per i partiti della maggioranza è importante. Un ascoltatore, ma non credo che il ministro sia contrario. Un ascoltatore via WhatsApp ci scrive, ma sveglia, una legge contro i magistrati secondo voi passerà mai? Ma perché contro i magistrati? Non è che pagherebbero i magistrati, pagherebbe lo Stato. Certo, Maurizio, può essere percepita come una legge contro i magistrati questa? No, allora, i magistrati di solito percepiscono tutte le leggi contro di sé, perché hanno questa, purtroppo, questa forma mentis. In questo caso l'unica eccezione che può essere suscitata è che in Italia c'è il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, che in realtà è una finzione scenica, esatto, perché poi i magistrati fanno esattamente quello che vogliono, ma lasciamo perdere, c'è quel principio costituzionale per cui il magistrato dice ma io sono obbligato a perseguire un reato se io ne vengo informato in qualunque misura, e questo è purtroppo, voglio dire, o per fortuna a seconda dei punti di vista, è la situazione giuridica italiana, costituzionale italiana, per cui il magistrato fa il suo lavoro, non è il suo lavoro che viene contestato, anche errori, voglio dire, anche perché come fate spesso voi sul Panorama dovremmo contestare il fatto piuttosto che il pubblico ministero spesso si dimentica che nel suo obbligo c'è anche produrre le prove a favore dell'indagato. Però esattamente, molto giusto quello che ha appena detto quello proprio, che noi contestiamo è la grande ingiustizia, il fatto che io vengo proclamato innocente, pienamente innocente da un tribunale, e però devo comunque mi sono dovuto pagare fino a quel momento. A volte elevatissime che mi rovinano la vita in molti casi. Noi a Panorama abbiamo raccolto dei casi di gente comune costretta a pagare centinaia di migliaia di euro che non sa come fare. Senatore Albertini, posso stava fare con un commento brevissimo, dando molta ragione a quello che ho appena ascoltato sia dal vice direttore Tortorella che da Oscar. In particolare, il pubblico ministero è uno dei motivi per cui si è contrari da parte di alcuni magistrati, soprattutto alla separazione delle carriere. Il pubblico ministero è comunque un giudice e quindi, secondo il suo prudente apprezzamento, si dice, deve valutare anche le circostanze a difesa dell'indagato prima che diventi un imputato. E quindi un conto è l'obbligatorietà dell'azione, un conto è l'obbligatorietà dell'incriminazione o del rinvio a giudizio. E aggiungerei, mi correggo, devo aggiungere, oltre al pubblico ministero, come nel caso di dolo o colpa grave da parte del pubblico ministero, anche del GIP, che in molti casi rinvia a giudizio facendo il copia e incolla di quello che riceve dal pubblico ministero. Quindi è corresponsabile di un'eventuale azione penale esercitata in maniera disinvolta o peggio ancora. In ogni caso, noi vedremo e come sempre torneremo sulle vicende. Come possiamo, nei limiti del nostro mestiere, però daremo atto di tutti i passaggi. Speriamo in avanti di questa buona iniziativa per la difesa dei diritti del cittadino. Sì. Allora ringraziamo il senatore Gabriele Albertini, così come ringraziamo il gruppo Area Popolare, non ho detto, così come Maurizio Tortorella, vice direttore di Panorama. Allora, vedi che qua continuano intanto le proposte. Cosa tagliereste se foste in Renzi? Questo è lui, forse pensa al bollo auto. Sabatino da Roma invece che pensa, Sabatino? Buongiorno a tutti. Io penso, ho lavorato 40 anni in banca e penso che la cosa più semplice e trasparente e bene per tutti sarebbe tagliare le tasse sui soldi spesi. Cioè, se io spendo soldi e riprendo il mercato, le tasse le paga quello che ha incassato, se a sua volta non dimostra di aver speso. Cioè, io dicevo, un bene o un servizio, indipendentemente da quello, se noi dalla nascita abbiamo il tesserino nostro codice fiscale, è sufficiente agganciare il tesserino fiscale alla spesa. Quindi si vede chi paga e chi incassa, automaticamente c'è più trasparenza, tutte queste truffe andrebbero, non sarebbe possibile tante. Tante social card che io conosco di gente, sì, che non avrebbe diritto, perché si vede dal volume di spesa quello che fa. Sì. Il discorso della privacy non c'è più, perché con il bancomat, con i telefonini... Vabbè, le soluzioni sotto mano. No, Sabatino, la fermo perché stiamo finendo il tempo. Sembrava un'elencazione di un programma economico, esatto, per una di lista governo. Di governo. Comunque io invito tutti a leggere le parole del giudice tributario della Cricca di Roma, che metteva a posto i processi tributari per gli amici e gli amici. Queste sentenze noi le famo cotte e magnate, c'è scritto, sì, su Repubblica cotte oggi. Cotte e magnate. Vogliamo chiudere ancora con WhatsApp due o tre proposte? Io riformerei il catasto a prezzi di mercato. Abolirei gli stenografi e tutti i parrucchieri del Parlamento avranno 250.000 euro l'anno. Sono buoni. Io abolirei il Parlamento, visto che non serve, sì, a niente, perché danno sempre la fiducia. Vedi Trump, vedi Trump. Superato. Dai Oscar, ci troviamo lunedì prossimo. Benissimo, oggi pomeriggio domani mattina. Comunque qui alle 8:15 con Attento a Noi Due, e comunque prima con Nino Mila, tutte le mattine da lunedì a venerdì.